si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno e buon sabato, cari ascoltatori, ben ritrovati con una nuova puntata di Si può fare, il buongiorno del weekend su Radio 24, a caccia di buone notizie. Oggi, sabato mattina, puntata eccezionalmente registrata, vi terremo comunque compagnia fino alle 10 del mattino facendovi risentire alcune delle storie con cui vi abbiamo accompagnato nelle scorse settimane. Un piccolissimo sommario di quello che sentiremo, parleremo dell'olio di palma e insomma fa bene, fa male, ne parleremo perché l'autorità per la sicurezza alimentare europea ha portato a termine una ricerca di anni e adesso possiamo dirlo, l'olio di palma proprio bene bene non fa. Ne parleremo con una giornalista che insieme alla Fondazione Veronesi ha scritto un libro sullo smart food, il cibo che ci fa bene. E poi la petizione, quella che chiede al Ministero dell'Istruzione di tenere aperte le scuole fino al 30 di giugno, un si può fare interrogativo. E poi torneremo a parlare di bicicletta perché è stato finanziato il Grab, il grande raccordo anulare delle biciclette, una mini tangenziale che dovrebbe girare attorno alla capitale, una infrastruttura attesa da anni dai ciclisti italiani. Scriveteci a si può fare radio24.it o la pagina Facebook si può fare radio24 o anche sul nostro account di Twitter @ si può fare 24, il mio @ Ale Maurizi. Vai, iniziamo. Fatto una promessa, l'amore porterà, yeah, yeah, yeah, yeah. Anche tu in riva al mare tempo fa, amore, amore, mi dicevi luglio ci porterà fortuna, poi non ti ho vista più. Vieni da me, c'è tanto sole, ma ho tanto freddo al cuore, se tu non sei con me. Siamo voluti partire così, con un andamento volutamente slow music, con questo Riccardo Del Turco che reinterpreta la storica Luglio, perché stiamo parlando proprio di questo, di tenere le scuole aperte un pochino di più d'estate. È una petizione, ai ai ai cari studenti, che però ci sono delle motivazioni, ci sono, è un si può fare anche questo. Stavi chiamando gli studenti ad andare in piazza a firmare questa petizione, spero. Sì, esattamente. La promotrice è Alberta Alessi, è una logopedista, io stesso forse ne avrei bisogno, di Pavullo, in provincia di Modena. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, incespicare sulla parola logopedista è perfetto per la domenica mattina. Se viene a farci un corso a tutti e due, noi siamo felici. È da record. Ma ti capisco bene, uguale. È che non abbiamo bevuto il caffè stamattina, quindi insomma i problemi aumentano. Allora, Alberta, perché questa petizione? In realtà, chi ha figli, io ne ho un paio, sa che a un certo punto, quando ti chiude la scuola e restano ancora due mesi di vacanze per loro, ma di lavoro per te, iniziano i problemi. Però voglio farlo dire a te. Ma sì, la petizione è nata un po' da questa riflessione tra mamme e papà. In questo periodo, penso per tutti, ci si passa informazioni sui centri estivi, quanto costa questo, quanto costa quello, tu dove li mandi, i nonni cosa fanno, li vogliono ancora, no, non li vogliono più, e via dicendo. E parlando di ciò, riflettevamo sul fatto che non sono due mesi, ma sono tre mesi, almeno da noi a Pavullo, perché ci sono le amministrative, in cui sono a casa, e anzi sarebbero tre mesi e mezzo, perché c'è anche mezzo giugno. E parlando di questo, io una notte, presa un po' da stanchezza e un po' voglia di fare la rivoluzione, ho scritto questa petizione, senza aspettarmi tutto questo ovviamente clamore, ma solo per dire proviamo a cambiare dal basso le cose. Ecco, e a noi piacciono queste iniziative mezze rivoluzionarie, di chi almeno ci prova, no? Ma la petizione è andiamo avanti, basta con le vacanze estive, che si vada a scuola anche giugno, luglio, agosto e settembre. Esatto, no assolutamente no, infatti mi hanno già scritto maestre vi dicendo che vogliono accoltellarmi di notte, vi dicendo no, io non gomme. Sono contrario agli accoltellamenti. Esatto, un po' anch'io. E no, in realtà la mia proposta era ovviamente solo fino al 30 giugno, perché non volevo esagerare, che dopo davvero Ho detto fino al 30 giugno, ma questo mese in più non pensarlo di scuola tradizionale, pensarlo come un mese di scuola di sperimentazione. Di attività varie, tutte quelle che durante l'anno purtroppo non vengono fatte con abbastanza assiduità. Cioè l'idea è proprio quella di tenere aperte le scuole per farci cose varie. No, sì, infatti lì si parla di riutilizzo di strutture e di spazi. E poi sì, io parlavo anche di utilizzo, tra virgolette, di insegnanti, nel senso che sono lì e sono pagate. E poi una visione un po' più ampia, io parto poi dal presupposto, anche lì insomma poco utopistico, di voler cambiare la scuola e quindi di riragioniamo su come si sta tra i banchi di scuola, cioè che forse di stare 8 ore seduto tra i banchi non è più il tempo, e ci sono tante realtà felici come l'asilo nel bosco e tante altre che stanno sperimentando altre pedagogie. Allora, visto che so che non si può cambiare dall'oggi al domani la scuola, la mia idea era partiamo da un piccolo mese, anzi due o tre settimane. Nel quale la scuola la utilizziamo in maniera diversa. Sì, le maestre cominciano a ragionare in maniera diversa, cioè io posso andare nei boschi, cosa assurda, no? Mi sembra saggio soprattutto iniziare a darsi il tempo, cioè giustamente sì, tu esatto. Dici, non è che ho già la riforma in mente, ma iniziamo a tenerla aperta di modo che sappiamo che ci sono quelle settimane in più, che così sì. Non inficiano il programma scolastico, esatto. Non c'è tutto il problema che uno dice ma come faccio, devo finire tutto quello, e in quelle settimane capire come adoperare meglio la scuola anche per esempio nel mese di giugno, mi sembra sì. Saggio. Se e secondo me anche per i ragazzi, ma anche e soprattutto per gli insegnanti, perché in realtà poi io sono una grande sostenitrice delle nostre maestre, che ovviamente sono in gamba, si spendono, fanno un sacco di cose belle, e questa didattica così statica e frontale secondo me non fa bene neanche a loro, nel senso che è un modo di rapportarsi con i ragazzi che è molto pesante. Io ci credo che arrivino sfinite, e arrivano sfiniti anche i bimbi, ma se invece cambiasse il rapporto, fosse molto più naturale, più legato anche all'esperienza, al fare insieme, secondo me sarebbe più arricchente per tutti. È giustissimo, forse il rischio è se a mischiare le due cose, che poi non si riesce a raggiungere né una né l'altra, nel senso che da un lato è la questione del allungare i giorni e far sì che anche giugno i bimbi non siano a casa e quindi diventino anche un problema per i genitori, l'altro è riformare il metodo di studio, se posso permettermi, nel senso che mi sembra più difficile. Sulla questione dell'orario ti posso anche tranquillizzare, io ho fatto la scuola tedesca a Milano, in realtà alla scuola tedesca si va a scuola fino a tutto giugno, assolutamente. Infatti. Perché forse possiamo anche dire che una delle cose che non funzionano, delle poche cose che non funzionano nella scuola italiana, che ha molti punti di merito, potrebbe essere proprio questo, un periodo molto molto lungo di vacanza estiva, giugno, luglio, agosto e un pezzettino di settembre. In altri paesi si fanno vacanze spezzettate durante l'anno e si sta 3 mesi lontani dopo dalla scuola. Va detto che comunque se stai in Sicilia diventa credo difficile o comunque in altri posti stupendi. È stupendo, scusami, nel senso che nel momento che c'è il caldo, c'è il mare, diventa molto difficile portare i bambini a scuola. Se uno a Milano, nella triste Milano, è più facile. Ma anche a Milano bisogna offrire cose diverse, cioè giustamente d'estate i bambini devono provare l'ozio, devono provare il gioco che sì. È per esempio è sottovalutato da morire a scuola, e tu gli devi offrire, no, giustamente loro i bambini non vengono a scuola perché dicono certo. Lo facciamo già tutto l'anno, però se tu gli offri una cosa diversa, una sperimentazione diversa, secondo me i bimbi e i genitori, anche perché i centri estivi sono nelle scuole, almeno da noi sono ubicati nelle scuole, quindi se si parla di tu dici tanto vale, già che stiamo dentro le scuole utilizziamo proprio sì. La scuola con la S maiuscola. Esatto, che è la base, poi da lì ti sposti. Cioè, voglio dire, esistono parchi dappertutto, esiste il mare, esistono tanti posti. Grazie Alberta, quello che dovevamo dire l'abbiamo detto, questa è la petizione, se volete sostenerla andate sul sito change.org, scuole aperte almeno fino al 30 di giugno, i motivi li abbiamo ampiamente spiegati. Grazie, in bocca al lupo. Grazie. Grazie a voi. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Voglio vivere così, col sole in fronte, e felice canto, beatamente. Voglio vivere e goder l'aria del monte, per impertinente menestrello dell'amore. Eccoci qua con le storie di quelli che a un certo punto hanno deciso e hanno detto, si sono detti, voglio vivere così. Ah, col sole in fronte. Oggi è la storia di Roberto Soldatini, direttore d'orchestra, compositore, violoncellista, ha diretto tante orchestre in Europa e nel mondo, è stato all'Opéra di Parigi, ma da qualche anno ha deciso di vivere non più sulla terraferma, ma in mare. Buongiorno. Buongiorno a voi. Eccolo qua. Dalla stiva? Ci sta chiamando. Buongiorno. Buongiorno, sì, vi sto chiamando esattamente da dentro la barca. Da dentro la barca. Bello. Quindi la notizia è che c'è campo sulle barche, c'è campo. Quindi se volete andare a vivere in barca, sappiate che il telefono lo potete portare, che serve sempre. Com'è il tempo oggi lì in mare? Qui a Napoli è spettacolare, sembra quasi estate. Siamo in maglietta e pronti per salpare. Pronti per salpare. L'abbiamo detto anche perché noi qui da Milano, però ho la netta sensazione che ha più ragione lei, quindi ragione. Sicuramente è più bello lì. Non so, difficile salpare da Milano, esatto. Anche se avete i navigli. C'è la Darsena adesso. Penso che quando uno vive in barca le informazioni sul meteo diventino più importanti che per una persona normale, no? Devono essere controllate quotidianamente, anche se uno sta in porto, perché comunque se dovesse arrivare una burrasca bisogna rinforzare gli ormeggi, certo, e controllare la barca. Ma oggi scherzava quando ha detto che è pronto per salpare o veramente c'è un giro in previsione oggi? A parte che sono sempre pronto a salpare, perché il bello del vivere in barca è questo, che quando ti stufi alzi le vele, quando ti attacca la noia addosso alzi le vele e salti, ma oggi in particolare... penso che farò un salto a Ischia o a Procida, visto che no, che meraviglia. Beh, vabbè, io mi alzo e me ne vado. Può comprendere la nostra invidia, nel senso che uno che dice penso che farò un salto a Ischia è molta invidia. Beh, potete raggiungermi. Sì. So. Io direi che noi abbiamo costruito la Darsena perché in realtà la vogliamo riportare alla Scala di Milano, è l'unico modo per portarla alla Scala, visto che lei ormai è in barca. La Darsena è stata costruita per lei. Ma l'ultima volta che sono passato a Milano ho visto che c'è pure una barca a vela, non so come ci hanno portata. Sì. È una bella domanda, perché ci sono parecchi ponti, quindi non si sa come fa a passare sotto. Senta, Soldatini, mi piacerebbe che ci raccontasse tante cose del suo nuovo modo di vivere, ma a un dato momento è successo qualche cosa per cui lei ha preso questa decisione, o è stata una maturazione? Ci piace sempre chiedere questa cosa per capire come nasce la sua svolta, il suo voglio vivere così. Qualcuno potrebbe pensare che uno a un certo punto si sveglia la mattina, no? Dice adesso basta, come poi si titolano alcuni libri adesso che aderiscono alla moda del mollare tutto, però in realtà non è accaduto così, è stata un po' una scelta maturata negli anni, una serie di coincidenze, di sinergie che si sono incontrate e hanno fatto maturare questa scelta. E comunque sì, è meno difficile di quella che pensano tutti, anche se tra l'altro ho scoperto essere nei sogni di molte persone. I sogni. Però poi quando si parla di concretizzarli, questi sogni, molti hanno paura e stanno lì nel loro angolino. Questo perché noi viviamo in quella che io dico sempre, ho chiamato la società del preservativo, no? In cui tutti vogliono essere, assicurarsi da tutto, hanno paura di tutto. Di tutto. Qualche rischio bisogna correrlo, se no non c'è gusto. Ma per forza, altrimenti appunto noi viviamo in un'epoca in cui l'unico vero rischio è aver paura di correre dei rischi. L'unico vero rischio Bella è non rischiare, questa. Direi. Bella esatto, questa. Non rischiare. Senta, in quanti metri quadri vive lei oggi praticamente? Dunque, i metri quadri sono difficili da calcolare perché, come sa, la barca ha delle forme molto arrotondate e affusolate, soprattutto verso... Allora, i metri tondi, diciamo. I metri tondi. Comunque è lunga 13 metri e mezzo e larga 4,20 nel punto più largo, quindi non so, 10 per 4, la mia matematica non è mai stata un mio 52, 10 per 4, però saranno molti meno perché alle punte è più affusolata. Delle barche si dice la lunghezza, 13 metri. E bene o male, insomma. Allora, non fare finta, Carlo, di sapere delle barche, perché non sai nulla neanche tu delle barche. Ma anche sono andato, non è che... Quindi va bene, questa è la lunghezza, 13 metri. E sì, però calcoli che anche se è arrotondata, gli spazi all'interno sono sfruttati molto meglio di quelli di un appartamento. È una fior di barca a 13 metri, ecco questo diciamo per gli ascoltatori di Milano che non hanno la barca, comunque 13 metri è una signora barca, certo. Un salone, due camere matrimoniali, due bagni. Due camere matrimoniali? Due camere matrimoniali. quindi per gli ospiti, se qualcuno vuol venire, viene qualcuno ogni tanto a trovare. In realtà attualmente è occupata da Stradi, che è il mio violoncello. Ah, e qua veniamo all'altra parte. Per gli ospiti, gli stanno simpatici. Da perché ha un nome il violoncello? Sì, l'ho chiamato Stradi. Stradi. Stradi. Da Stradivari, dai. Ovviamente. Io ovviamente di Stradivari. Certo, io avevo capito Stragi e mi ero un po' agitato. E questo è l'altro aspetto della sua vita importante, fondamentale, perché il rapporto con la musica in realtà è andato avanti. Lei, se ho capito bene, la mattina scende di barca quando deve andare a insegnare e va al conservatorio, al vicino conservatorio, a insegnare. Di Potenza. Di Potenza. Sì, vado due giorni a settimana, ma non solo, quando sono in navigazione, perché io alterno 6 mesi in porto a svernare e altri 6 mesi in navigazione. Ma il conservatorio non lo abbandono totalmente, ovviamente, per cui quando mi trovo, in qualsiasi porto mi trovo, una volta al mese prendo un treno o un aereo e raggiungo i miei. Dove deve andare, insomma, per suonare anche. Lei ha scritto tra l'altro un libro da poco, Sinfonie Mediterranee, in cui immagino che racconti anche un po' questi due aspetti della sua vita, l'isolamento in barca e la musica, questa nuova vita, e però la musica che l'accompagna da sempre. Io volevo chiedere, qual è il momento più bello della giornata in questa sua nuova vita che ha scelto di fare ormai da alcuni anni? Guardi, ce ne sono tantissimi, direi che le mie giornate vivendo in barca sono un momento bello dopo l'altro che si susseguono. Forse il più bello è al tempo stesso il meno romantico, perché potrei dire il momento più bello è quello in cui mi metto a prua a suonare al tramonto in una baia, e lo è, però devo dire che il più bello per me è riscoprire la bellezza di dormire la mattina, quando mi sveglio che c'è questo lieve dondolio che ti dà la barca e ti svegli, perché sono alla sveglia, percepisci questa sensazione straordinaria di benessere e dici vabbè, ma che me altro a fare. Ma naturalmente bisogna evitare, come dire, di soffrire di mal di mare. Se malauguratamente capita, si supera poi il mal di mare, sì. Ma il mal di mare pare che sia un adattamento del nostro organismo a una situazione diversa. In effetti all'inizio ne soffrivo non tantissimo, cioè quando stavo in navigazione non ne soffrivo, soffrivo appena scendevo sotto coperta. E tant'è vero che le prime navigazioni mi portavo tutto sopra, il necessario per da mangiare, qualsiasi altra cosa, per evitare proprio di scendere sotto. Per sopravvivere. Sì, per sopravvivere. E poi dopo, mano a mano, questa di disagio è passata, tant'è vero che adesso in navigazione anche c'è la barca sbandata, durante una navigazione difficile mi metto a cucinare, a fare qualsiasi altra cosa. Ma quindi è un adattamento sicuramente. Ma le volevo chiedere una cosa che forse è un po' personale, ma lei ha anche un appartamento oppure si è trasferito completamente in barca? Perché secondo no, questo lo racconto nel primo libro, quello che ho citato lei, Sinfonie Mediterranee, è il secondo, è uscito da poco, ma è il primo libro che ha vinto anche un premio per la letteratura Marinkovic, La musica del mare. Racconto proprio l'inizio di questa avventura e racconto che ho venduto l'appartamento per comprare la barca, e la coincidenza straordinaria è che ho venduto l'appartamento a una signora che mi ha venduto la barca. Ah, perfetto. No, ero molto curioso per questo, perché siccome sono un accumulatore compulsivo, ho tantissima roba, nel momento in cui mi immaginavo di dover andare in barca è impossibile portarsi dietro tutto, quindi si diventa anche un po' più essenziali, ed ero interessato se era avvenuto questo meccanismo per cui uno dice ma forse posso anche liberarmi di un sacco di cianfrusaglie che ho e che possiedo. Guarda, per lei che ha questo problema che avevo anch'io, glielo suggerisco vivamente, perché una delle ragioni che mi hanno fatto scegliere questa vita è stata anche quella di liberarmi di tutti questi orpelli che noi ci collezioniamo durante tutta la vita, e che ce lo opprimono la vita, perché poi alla fine noi collezioniamo un'infinità di cose e diventiamo schiavi delle cose e non più padroni. Condivido. E quindi la barca è proprio il momento ideale per liberarsi di queste cose, perché proprio perché in barca non c'è spazio, certo. Devi portare proprio l'essenziale per la vita. Per me ci vuole una terapia d'urto, credo che andrò a vivere in un canotto. Vado a vivere in un canotto per 6 mesi in un pedalò. Grazie soldatini. Cosa suona quando sta la sera sulla sua barca col violoncello? C'è un compositore? No, non c'è un compositore preferito, suono molte cose, ma molto spesso suono Bach. Le suite di Bach. Le suite di Bach, anche perché ho trovato che c'è una sorta di relazione tra la

passare. Sì, e nel caso sicuro, perché la macchina che mi la macchina pensano sempre ce la faccio a superare il ciclista, poi lo centrano. L'incidente più normale per il ciclista è il tamponamento da certo. parte della macchina. Non, un ciclista non viene mai investito in frontale da un'auto. Sì, sì, questa è la ragione che dicevo, che ci vediamo reciprocamente e siamo in grado di gestire gli spazi. Sì, però questo anche perché non la raccontano mai. Si fermano. A quel punto i ciclisti si fermano. Non è un buon motivo per farsi centrare anche frontalmente. No, esatto. No, assolutamente no. E buone pedalate a tutti allora. Grazie signori, buon lavoro. Grazie, ciao, arrivederci. Arrivederci. Tempo in diretta. Previsioni a cura di 3B Meteo. Una buona giornata da Alex Guarini e gli ascoltatori di Radio 24. Sarà un sabato ancora all'insegna del sole, dell'alta pressione e del clima estivo un po' su tutta Italia. Vi segnalo soltanto al pomeriggio lo sviluppo di rovesci e qualche temporale sulle Alpi che poi nel corso della serata e della notte riusciranno a portarsi fin verso le pianure del Piemonte e dell'Ovest Lombardia. Intanto le temperature saranno ancora tipicamente estive con massime sempre prossime ai 28-30 gradi, con valori un po' più bassi soltanto lungo le coste grazie a venti più freschi di brezza. Vi segnalo poi un abbassamento delle temperature al centro nord nel corso di domenica per l'arrivo di piogge temporali, ancora più in estate invece al sud. Per maggiori dettagli e aggiornamenti in tempo reale vi invito come sempre a scaricare l'app di 3B Meteo su smartphone e tablet. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Orecchiette alla pugliese, tortellini alla bolognese. Salti in bocca alla romana, melanzane alla parmigiana. A noi ci piace magna. Dici che era un po' presto alle 9-8 minuti? No, è perfetto, così. Io ho fame. A noi ci piace magna, Renzo Arbore, perché di questo parliamo, di quello che mangiamo ogni giorno, perché c'è una notizia che ci allarma, ma è una moltissimo. Conferma, anche se è una conferma di qualcosa che è stato detto in passato. Ne parliamo e le diamo il buongiorno con Eliana Liotta, giornalista, collega, autrice del libro La dieta smart food. Buongiorno Eliana. Buongiorno, buongiorno a ciao. Tutti. Buongiorno. Allora, un libro importante uscito quanto tempo fa? Non molto tempo fa, l'anno scorso. No, non molto, è uscito alla fine di febbraio per ecco, ricordo. Quindi sì, pochi mesi fa, un libro in collaborazione con l'Istituto Europeo di Oncologia, lo IEO di Milano, nel quale tu con gli altri autori fate il punto, forse per la prima volta, su non tanto quello che fa male, che poi è la notizia invece da cui vogliamo partire oggi, ma il cibo che fa bene, che aiuta a prevenire le malattie, che insomma ci fa star bene. Però Eliana, la notizia, l'autorità alimentare per la sicurezza alimentare europea ha detto una parola, non dico definitiva, ma insomma forte, sulla questione dell'olio di palma. Famoso sì, olio di palma. Il famoso di cui olio di palma. Intanto noi ci siamo accorti dell'esistenza dell'olio di palma sui prodotti, lo vorrei ricordare, sì, dalla fine di dicembre del 2014. Ah, c'è anche una data proprio, eh? Sì, perché è il momento in cui una normativa europea ha reso obbligatoria la dicitura dei grassi vegetali specifici presenti nei vari prodotti. Ecco, vedi? Tutti vedi? All'improvviso si sono resi conto che biscotti, merendine, prodotti industriali sì, di ogni genere, creme spalmabili e quant'altro, c'era l'olio di palma. Ecco, scusami, adesso sulle creme lo sapevamo da un po', se sì, si diceva già da un po', però in effetti da quando ci sono queste etichette adesso si sa che c'è dappertutto. Infatti, adesso che l'hai detto, Eliana, mi è venuto in mente che noi a dicembre 2014 eravamo lì a darla questa notizia. Io me lo ricordo quando uscì fuori questa cosa dell'etichettatura europea, vedi che ogni tanto ne azzecchiamo qualcuno anche noi. Esatto, e quindi da quel momento è venuto fuori che c'era un po' ovunque. È cominciata una battaglia da parte dei salutisti, che hanno cominciato a muovere critiche nei confronti di questo uso indiscriminato dell'olio di palma in moltissimi prodotti, da parte degli ambientalisti, perché insomma una delle foreste tropicali grandi, insomma, può essere una doppia campagna. Poi è partita anche la campagna dei produttori, che hanno cominciato invece a dire no, ma l'olio di palma non fa così male, non ci sono prove. E via. Adesso c'è un rapporto a sì. cui tu accennai, è quello dell'autorità per la sicurezza alimentare. Sì. Uno studio decennale, tra l'altro. Ma non dice delle cose così nuove rispetto a quelle che si sapevano. Riprende degli studi che erano stati fatti sui topini di laboratorio, in cui alcune sostanze indesiderate, tre sostanze che si formano nel processo di lavorazione dei grassi vegetali, potrebbero essere cancerogene. Okay? Attenzione, perché non è mica una cosa da pochino. Non è da pochino. Durante la lavorazione, quindi la raffinazione, quando gli oli vegetali raggiungono delle temperature molto alte, si creano questi contaminanti da processo, si chiamano così, ecco, sostanze che per i topini, ripeto, per i topini, potrebbero essere cancerogene. Ora, io vorrei vuol dire che sull'uomo lo siano, perché non ci sono studi definitivi che dicano che l'olio di palma sia cancerogeno per l'uomo. Questo va detto in maniera molto chiara. E difatti non è seguita una normativa che vieta l'uso di palma nei prodotti, l'uso dell'olio di palma. Dico però che l'olio di palma contiene tantissimi grassi saturi. Al di là di questa ricerca, che allarma, no? Mette in uno stato, insomma, un po' di panico, ma invece questo lo lascerei in secondo piano. Di certo l'olio di palma contiene tantissimi grassi detti saturi. Li possiamo considerare grassi cattivi. Ci sono i grassi buoni, quelli dell'olio extravergine d'oliva, e i grassi, chiamiamoli cattivi, che sono quelli contenuti per il 50% nell'olio di palma. Ho capito, tu vuoi dire, al di là del fatto che è stato dimostrato che sui poveri topini fa male, molto male, ma non è stato dimostrato che sugli uomini possa fare altrettanto male, questo grasso, io banalizzo, proprio vado a terra, fa schifo, cioè è peggio dell'olio extravergine. Usiamolo, allora perché non usiamo l'olio extravergine? Perché se è che... perché poi quanto costerebbero le merendine con l'olio extravergine? Questo. Esatto, è cattivo perché ci può fare ingrassare, perché fa salire il colesterolo, il contrario di quello dell'olio extravergine in misura limitata. Allora perché lo usiamo? Perché lo usano nei prodotti industriali? Perché costa poco, perché rende i prodotti molto fragranti, quindi ha una particolare qualità effettivamente nelle lavorazioni industriali. Cioè siamo alle solite, la mela rossa e tonda piuttosto che la mela bitorzoluta, magari è più buona quella bitorzoluta, però la mela deve essere rossa e tonda, e qua il biscotto deve essere, come deve essere, fragrante. Com'è il biscotto con l'olio di palma? Poco, che sia fragrante, ma guarda, poi in realtà qual è la soluzione? È come al solito evitare gli eccessi. Sì. Ma quello comunque, ma chi potrebbe mai suggerire di mangiare ogni giorno merendine? Lardo di colonnata tutti i giorni? Beh, no. No, nemmeno quello. Nemmeno quello. Però, ma l'esempio è molto giusto però, perché giustamente se no uno dice l'allarmismo, niente più merendine tutti i giorni, ma ugualmente anche il lardo di colonnata, che è buonissimo, però non va mangiato tutti i giorni. Giustamente non va mangiato tutti i giorni. Però scusa Eliana, qui questo olio di palma in quanti prodotti magari di uso quotidiano sta? Questa anche è la domanda, no? Biscotti, merendine, tantissimi. Guarda, veramente tantissimi. Tanti. Non so, sfoglie per la pasta, alcune sfoglie surgelate, davvero tantissimi biscotti. Basta guardare l'etichetta per rendersi conto che è davvero tanto, tanto usato, perché ha delle qualità. Tra l'altro i produttori dicono, guardate che noi usando l'olio di palma abbiamo evitato di inserire nella lavorazione dei prodotti i famosi grassi trans o idrogenati, che sono 100 volte peggiori dell'olio di palma, se è possibile. Quindi hanno sostituito una cosa pessima. Pensate che i grassi trans nel 2018 saranno banditi dagli Stati Uniti, tanto per dire di cosa stiamo parlando. Quindi hanno sostituito quelli con questi. Insomma, bisogna mangiare una crema spalmabile quando piace, perché è buonissima. Sì. Comunque, diciamolo, e il gusto ha i suoi perché, i suoi vantaggi. però non eccedere mai con i adesso io ti chiedo, ci pensi durante la pausa, ma credo che tu non ci debba pensare molto, perché hai appena scritto un libro che di questo parla, Smart Food, il cibo che ci fa bene. Sì? Come possiamo sostituire soprattutto merendine per i bambini, biscotti e merendine, che insomma, diciamolo chiaramente, io ci sono cresciuto a merendine e ne mangio ancora quelle di mia figlia, e quindi ce l'abbiamo tutti in casa. Troviamo delle alternative meno a base di olio di palma, ecco. Va bene. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno e benvenuti da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buongiorno. Insieme Si può fare fino alle 10 e adesso in compagnia di Eliana Liotta, giornalista, autrice del libro La dieta Smart Food. Eliana, io immagino che tu starai pensando, cosa gli dico? Frutta? Sì, ma la frutta poi i bambini non la vogliono, i dolci fatti in casa, però bisogna farli. Come ne usciamo da questa cosa dei biscottini all'olio di palma? Io intanto ho due gemelli di 8 anni, quindi conosco benissimo la materia. Sei in mezzo al problema. Quindi sì. Ma ti dico la prima cosa, che è la frutta. Cioè, noi dobbiamo insegnare ai nostri figli e a noi stessi a scoprire la dolcezza della frutta, che è il dessert della natura. Hai ragione, è questo vero. Io non posso non dire di mangiare la frutta. No, hai ragione, sai, è vero che... È vero, e non è banale, lo dico ai genitori che hanno perso la speranza, perché se iniziate presto o se insistete, arriva un momento nel quale con mia figlia Viola è così, cioè lei mi chiede la frutta, vuole la pera, la mela, è straordinario. Esatto. Che è un momento terribile di solito per una famiglia, perché in realtà la frutta costa molto di più di una scatola da 100 merendine. Non è vero. Sì, forse, ma non è vero, non lo so, non però sicuramente fa bene. No, quindi, fa benissimo. A me piace molto. In salute, mi sembra un ottimo investimento. È vero, ma ti volevo chiedere un'altra cosa, in realtà l'olio di palma viene usato anche in prodotti di, diciamo, che non hanno l'etichetta, che quindi non lo sappiamo, per esempio se si va dal panettiere al forno, le brioche. Non viene usato per questi, cioè non ci sono le bottiglie di olio di palma che tu metti in tavola al posto dell'olio extravergine d'oliva, non è così, viene utilizzato nei prodotti industriali. Perfetto. Ma se anche lo usasse il panettiere dovrebbe dichiararlo negli ingredienti. No, lo so, è che dal panettiere, almeno io gli ingredienti non li leggo, invece adesso sulle etichette impariamo a leggerlo, visto che c'è scritto sempre quando c'è l'olio di palma, e siccome non dobbiamo assumerlo tutti i giorni, almeno uno sa come fare. Esatto, e poi per i bambini è anche un bel po' di pane, pane integrale, pane normale con un velo di marmellata. No. Il classico pane e marmellata, certo, che non sì, sempre verde. Non pare prosciutto, perché anche quello il salumi. Perché il prosciutto non va bene, il prosciutto? Il prosciutto, sai, tutti i salumi non vanno tanto bene se mangiati in eccesso. Cosa vuol dire in eccesso, Eliana? Perché io già mi preoccupo. In eccesso vuol dire che noi dovremmo mangiarne non più di una volta alla settimana. Cade un silenzio terrificante. Un silenzio terrificante. Ma... No, perché poi io rido sempre, perché si pensa all'olio di palma, ma poi al posto si mangiano salumi. È verissimo. A go-go. Una volta alla settimana per ogni salume, cioè una volta la mortadella, una volta il cotto, una volta al crudo, una volta il salame, una volta la colonnata, una volta il culatello, una volta tutti. Questo dell'extra sull'olio di palma è uno studio per addetti ai lavori. Quello che dice il Fondo Mondiale per la Ricerca sul cancro sui salumi è to avoid. Non so se mi spiego. Sì, cioè, da evitare. Niente. Da evitare. Adesso poi i salumi italiani sono migliori di quelli di altri paesi. Comunque tra da evitare e mangiare ogni giorno... Saranno anche migliori degli altri paesi, però non esageriamo neanche però, lì. Senti, non so, io soccombo in questa lotta fra Nutella e lardo di colonnata, io soccombo perché amo entrambe. Cioè fai in un panino a strati, praticamente. Esatto, però solo una volta alla settimana. Ok, senti, vabbè, almeno diamoci qualche indicazione di qualche cibo che invece fa proprio bene, che uno ne può mangiare a quintali. Allora, smart food di questa stagione in arrivo, le fragole. Piede, i frutti di bosco. Buonissimo. E ce n'è uno che è il cioccolato fondente almeno al 70%, contiene una molecola che addirittura riuscirebbe a imbavagliare i nostri geni dell'invecchiamento. Quindi, il cioccolato fondente non ci fa invecchiare, ci fa ringiovanire. Beh, dai, straordinario. Sembra, eh? Vabbè, accontentiamoci di questo. Perfetto. Ma però se lo mangiamo, in ogni caso protegge il cuore il cioccolato fondente. Quindi ecco, non è vero che tutte le cose buone poi fanno male. Non senti, è così. Allora ho un cuore straprotetto, ne sono felicissimo di questo. 30 grammi al giorno. Sì, sì, ma io vado anche di una tavoletta intera, quindi. No, perché ci sono talmente poi effetti collaterali che non vanno. Senti, ma anche i pistacchi, che a me piacciono moltissimo, fanno bene, ma vero? Ma come no, tutta la frutta a gusto, non solo è consigliata, frutta a gusto sono le noci, i pistacchi, le mandorle, bla bla bla bla, bla. Non ma, solo fa bene, ma sì, addirittura è utile nelle diete. Aiuta a dimagrire. Ma se io ne apro una scatola e me la mangio mezza, anche qua, ecco, un leggero, questo no. Noi diciamo 25 grammi al giorno, 30 grammi, però sono 8 noci, 50 pistacchi. 20, beh, 50 pistacchi va bene. È un bel numero, Una bella dose. Io vado oltre, però cercherò di contenermi. Ma si pesano col guscio? Si pesano senza gusto. Ah, perfetto, perfetto. Allora ne sono felice. Tolgo anche la pellicina. Sì, non stiamo a pesare le cose, se no si diventa matti. All'incirca un mucchietto, così. Se volete saperne di più, la dieta Smart Food lo trovate in libreria Eliana Liotta, ma insieme a Pier Giuseppe Pellicci, giusto di ricordarlo, e Lucilla Titta. Grazie mille, Eliana. Grazie mille. Grazie a voi, buona giornata. Ciao, buona giornata, ciao. Come to me. Questa è Art Pop, niente meno che Lady Gaga. Gaga. E vi ricordo che tutte le nostre scelte musicali le ritrovate sulla pagina di Si Può Fare sul sito di Radio 24. Ci sono le playlist di tutte le puntate. Diamo il buon sabato, lo abbiamo convocato a Mauro Felicori, il direttore della Reggia di Caserta. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. E lei, Felicori, un bolognese trapiantato a Caserta, ci sta provando in tutti i modi a rivitalizzare la Reggia, a tutelare prima di tutto il patrimonio, ma anche a utilizzarlo. Ha detto che vuol far nuotare Federica Pellegrini nelle vasche della Reggia, ma non si rischia di trovarsi di fronte a una pantegana gigante? Beh, effettivamente le vasche sono state trascurate negli ultimi anni. E quindi abbiamo bisogno di fare dei restauri più importanti, ecco. Però l'obiettivo rimane, le piccole città di provincia hanno talvolta delle sorprese. Per esempio, qui c'è una scuola di perfezionamento, ci sono 5 nazionali di nuoto che preparano le Olimpiadi di Rio a Caserta. Nella vasca della Reggia, però. No, però ci hanno proposto di fare anche degli show, delle esibizioni per promuovere lo sport. Sì. E noi abbiamo accettato. E io ho detto: se poi arrivassero a Pellegrini, sarebbe il massimo. Di un nome di importanza mondiale. Ma lei l'ha sentita la Pellegrini? Le ha detto qualcosa? No. Perché adesso è impegnata, deve portare la bandiera. Quindi però se mi date il cellulare la chiamo. Noi ce l'abbiamo. Non abbiamo dubbi che lei la chiami. Anche perché Claudia Schiattone, che lavora anche allo sport come autrice e redattrice, sicuramente il numero della Pellegrini ce l'ha. Quindi adesso dopo glielo passiamo e vediamo di combinare. Molto bene, molto bene. Ma ha ricevuto qualche critica per questa idea? Perché ogni volta che qualcuno cerca di propone di utilizzare i siti in modo nuovo, c'è qualcuno che dice: ho ricevuto una critica di un blog in cui si dice che questo non è marketing, ma è marketing. Cosa vuol mai? In Italia cambiare è difficile. se ci vuole impegno, ma non ci spaventiamo. Purtroppo, come ho detto, il vero rischio è che Pellegrini non venga e quindi resteremo vergini. Va bene, allora facciamo già la criticano che lei lavora troppo. Adesso anche il marketing, mi sembra, a parte che il marketing e il marketing secondo me sono molto contigui e forse non fanno così tanto male. No, beh, guardi, il primo trimestre abbiamo fatto più 28% di visitatori, più 70% di incassi. Quindi vuol dire che, a fronte del fatto che le scuole calano per le nostre ragioni, il numero dei visitatori paganti cresce ancor più del 27%. Sono percentuali che qualunque azienda firmerebbe. Ah, subito, certo. Senta, un'altra cosa, mi tocca una curiosità. Lei ha detto che vorrebbe portare Bob Dylan a suonare, ho capito male? No, no, mi hanno interpellato sul tipo di musica da fare davanti alla Reggia. Ho semplicemente detto che la Reggia chiede allo spettacolo un certo tono. Stiamo parlando di un grande monumento. Sì. Poi d'altra parte Fericori io non critico, sì. Però forse la Reggia potrebbe pretendere un tono più elevato. Il che non vuol dire musica necessariamente sofisticata, quindi ho detto non è necessario che sia Stockhausen, può essere benissimo Dylan, che non è da meno di Stockhausen, secondo me, anche se gli ascolti sono enormemente distanti. Insomma, la strada è quella di essere anche un po' popolari, perché se a Pompei arriva Elton John, lei dice io sto qua vicino a Caserta, faccio arrivare almeno Bob Dylan. Ma non c'è dubbio, ma è una sciocchezza dire che l'alta cultura e la musica commerciale sono due insiemi totalmente separati. Cioè, si fa dell'ottima musica commerciale e non vedo perché non promuoverla. In più la Reggia non è una Reggia, è un museo familiare, vengono le famiglie con i bambini, era la casa dei re, vengono a vedere la storia, a ricreare lo stupore. Anzi, noi dovremmo farlo di più, dovremmo fare un museo più emozionante in cui si vedono non solo i letti dei re, ma anche i bidet dei re, ma anche le figure che parlano. Dovremmo sapere animare questo museo. Giusto. Anzi, attendiamo dei fondi, il ministro ci ha promesso dei fondi per questo. Senta, Fericori, noi siamo la radio di Confindustria, quindi un po' di conti dobbiamo sempre farli. L'Art Bonus sta funzionando, questo sistema per cui si può detrarre fino al 65% delle donazioni, perché insomma tutti quelli che gestiscono i grandi siti, grandi e piccoli, sono alla ricerca, ce l'ha fatto capire anche lei, di fondi, no? Per valorizzare, per tutelare e valorizzare il patrimonio. Questo sistema ideato dal ministro Franceschini, cioè ideato, rilanciato, sta funzionando? Al sud non sta funzionando, però è una grande idea, perché al vecchio modello lo Stato prende i soldi nelle tasche dei cittadini e li dà a un mondo della cultura implorante, si sostituisce un modello in cui non solo le imprese ma anche i cittadini con l'IOSEF possono dare direttamente i soldi ai progetti culturali. Quindi è una grande rivoluzione che faticherà ad affermarsi, abbiamo appena cominciato a spiegarla, ma credo che nel tempo si rivelerà preziosa. Ma perché, scusi, Fericori, perché al sud non sta funzionando? Perché l'IRPEF al sud è più bassa, cioè nel senso le buste paga sono più basse? No, beh, ci vuole tempo, è una misura... Beh, al sud funzionerà comunque peggio che in Lombardia, questo è agevole prevederlo, però l'IRPEF sono più bassi, i profitti sono più bassi quando ci sono, certamente, però... Non vi arrendete. È sbagliato vedere adesso i risultati, è presto per vedere i risultati. Va bene, grazie Fericori, buon grazie sabato. Grazie mille. Arrivederci. Il segnale orario vi è offerto da Vivacissima e Amissima, la nuova compagnia assicurativa con quasi 100 anni di storia. Si può fare. Cronache da un paese migliore. L'Italia ha come obiettivi da qui al 2020 di coprire tutto 100% a 30 mbps, mentre l'obiettivo è quello di arrivare al 50% di abbonamenti che arrivino non a 30 mega ma a 100.

Adesso è il momento di parlare di una bella iniziativa che viene da Bologna, è la Biblioteca degli Oggetti. Ecco noi Antonio Beraldi, ideatore del progetto che si chiama Lei la Bologna. Antonio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Il valente collega della cronaca locale di Repubblica.it scrive: sono biblioteche, pure dentro non ci sono libri, per entrare bisogna fare la tessera, ma non importa fare silenzio, perché sopra gli scaffali non ci sono libri, ma zaini, frullatori, pompe di bicicletta, persino un paio di sci. Antonio, che cos'è questa biblioteca che avete inventato? Esatto, esatto. È una biblioteca che è in realtà un po' una scusa. È una scusa per fare relazione. Io, come penso tante persone, ho in cantina degli oggetti che utilizzo poche volte all'anno, però li utilizzo. Trapano, ho anche tutto l'elenco che hai fatto tu. Qualche oggetto di design anche tu messo in cantina? Perché noi oggi stiamo chiedendo anche questo agli ascoltatori. A volte ci regalano delle lampade improbabili. Io per esempio ne avevo una. Ci mettiamo due anni a capire che sono delle lampade. Sì. Io ne avevo una. Adesso faccio questo outing o questo coming out. Non voglio dire la forma di questa lampada perché qualcuno che ascolta potrebbe capire che è lui che me l'ha regalata. Però era una roba in ferro battuto. È stata sempre in cantina. Quante persone ti hanno regalato una lampada in ferro battuto? Pochissime. Comunque, se chi gliel'ha regalata ci sta ascoltando, ovviamente può chiamarci e rispondo io alla telefonata. E comunque poteva tranquillamente finire nella biblioteca degli oggetti, perché poteva trovare un ammiratore, un utilizzatore, vero Antonio? Un oggetto del genere, sì, certo. Comunque un regalo impegnativo. Ma torniamo sul senso di questa, certo, oggettoteca. Quindi gli oggetti che utilizzo poche volte all'anno, sì, li terrei in cantina, appunto. Perché tenerle in cantina? Le condivido e in cambio, come ha detto il giornalista anche di Repubblica, facendo la tessera posso utilizzare tutti gli oggetti che vengono messi in condivisione. Quindi devo fare una cena a casa per 20 persone, sì, perché comprare la pentola per fare... Gigante, che poi non mi serve più. Esatto. Esatto. La pesciera da 20. Esatto, la pesciera da 20, piuttosto che l'imbrago d'arrampicata. Sì, e quindi per entrare nel gioco basta iscriversi, pagare la tessera, credo una iscrizione iniziale, o bisogna comunque portare un oggetto, Antonio? Comunque bisogna portare un oggetto, cioè questo è un progetto che vuole spingere le persone un po' a sporcarsi le mani, cioè certo, io mi metto in gioco e in cambio ricevo da tutte le persone che come me si sono messe in gioco e quindi devo condividere un mio oggetto. Quanta gente siete riusciti a coinvolgere fino ad ora? Speriamo poi saranno ancora di più dopo avervi ascoltato alla radio o anche altrove dove siete riusciti, diciamo, a raccontare questa storia. Quanti siete finora? Allora, per adesso sono circa 400 persone. Beh, però, un bel seguono, numero. No, infatti non ci aspettavamo così tanto affetto, però siamo ovviamente contenti. Ma 400 trapani? Sono 400 trapani o ci sono anche altri oggetti? No, perché a me il trapano interessa moltissimo. Io non ce l'ho, ho un sacco di fratelli e anche noi usiamo un po' questa tecnica che uno ha il trapano e ce lo passiamo. Quindi mi sembra molto, molto giusto l'oggetto trapano, che tutti ne abbiamo bisogno, ma tipo, credo, una volta ogni 35 anni. Beh, infatti, tra l'altro, quando io mi sono affezionato a questo progetto, che è nato a Berlino nel 2011, in un articolo sull'Internazionale leggevo che Leila Berlin aveva fatto questa sorta di ricerca proprio sul trapano, scoprendo che un trapano viene usato in media nella sua vita per 8 minuti, confronto invece a un'autonomia di... Cavolo, 8 minuti sono veramente pochi, sono veramente pochissimi. È stupenda questa. È una cosa che grida vendetta, quindi grazie ad iniziative come la vostra invece si dà una possibilità in più a questi oggetti. È proprio anche una cosa di amore per gli oggetti, no? Quasi. Ma sì, davvero sono tanti i punti di vista da cui si può guardare questo progetto: economico, sociale, relazionale, di inquinamento, ed è quindi un progetto che a noi ha colpito subito, ci ha veramente colpito e convinto. E poi la cosa bella è che siamo partiti proprio tra gli amici, chiedendo a loro se eravamo dei visionari o se Bologna secondo loro poteva essere un po' la piazza giusta. Va bene, esatto. Vi facciamo un grande in bocca al lupo, complimenti. Antonio Berardi, grazie per questa iniziativa, progetto Lei la Bologna, la Biblioteca degli Oggetti. Questa I Need a Dollar di Aloe Black, perché c'è un modo per guadagnare qualche piccola monetina, ed è quello di inserire oggetti in disuso, bottiglie di plastica, lattine già utilizzate, dentro degli appositi contenitori. Ce ne sono sempre di più in Italia. Dove? Io non butto mai la spazzata, nel senso che la tengo lì una volta al mese, dico bisogna, devo andare a buttare, sì. La differenziata potrebbe diventare un sistema, anziché buttarlo nel cassonetto sotto casa, dove poi passa l'AMSA a Milano a recuperarla, andiamo a cercare questi cassonetti, guadagniamo tante monetine. Il primo che restituisce anche delle vere proprie monetine è quello che è stato installato a Monselice. Siamo in provincia di Padova, ne parliamo con Francesco Chiebau, amministratore e responsabile di Erven Padova. Buongiorno. Buongiorno Alessio, buongiorno Carlo. Buongiorno. Allora, ne ha fatto di strada questo progetto che è partito qualche anno fa, delle macchinette riciclatrici incentivanti. Qual è il nome corretto che dobbiamo dare a queste macchine? Sono dei riciclatori incentivanti. Poi, tra le altre cose, il progetto è vecchio di 20 anni, perché sì, in Europa insomma già da tempo si però in Italia modo. Ci siamo arrivati un po' dopo. In Italia ci siamo arrivati un po' dopo, ma ci siamo arrivati con la solita modalità italiana, quindi con il sorpasso, perché oltre ad avere la possibilità appunto di dare dei benefit ai cittadini, quindi con un gesto di riconoscimento per la salvaguardia dell'ambiente, ma cos'è successo? È successo che una startup padovana che si chiama Zupay, è una moneta veramente rivoluzionaria, si è innamorata appunto del progetto e siamo riusciti a fare un qualcosa che neanche in Europa c'è per il momento. Ovvero sì, allora cerco di spiegare come funziona. Zupay è un sistema di pagamento tramite smartphone. Sì, che si scrive 2Pay, tanto per dire, www.2pay.it. Sì. 2Pay.it, perché è mutuato dal fatto che le transazioni costano solamente 2 centesimi. Okay. Paghi 2Pay. Quindi è un modo appunto di svincolarsi completamente dalle banche, e noi crediamo sia il futuro, insomma, un sistema di pagamento mobile che ci permette di effettuare transazioni a distanza oppure anche da vicino. Bella l'idea che il futuro sia svincolarsi dalle banche, è un'idea che piacerebbe a tanti, a tutti, anche a noi sicuramente. Non completamente, ma insomma in parte sì, perché non servono conti correnti e carte di credito con Zupay. Quindi il cittadino poi che cosa fa alla fine? Ci aiuta la comunità a riciclare il rifiuto, noi lo facciamo con le bottigliette di plastica e con le lattine al momento, e per la prima volta in Europa non solo avrà dei benefit, non so, uno sconto sul cibo in un supermercato, ma diamo un centesimo, che nella nostra visione futuristica e un po' visionaria di quello che vogliamo fare, sì, dovrebbe diventare 5 o 10 centesimi. E spiego anche come. Dovrebbe essere una sinergia, e qui invece ci scontriamo con la burocrazia e con l'impassman un po' delle nostre amministrazioni, dovrebbero essere le municipalizzate o i comuni, secondo noi, a riconoscere al cittadino che nel momento in cui la municipalizzata va a raccogliere il rifiuto, giustamente deve essere pagata, ma nel momento in cui il cittadino e ti aiuta, e quindi ti aiuta a riciclare e ti porta il gli devi rifiuto, riconoscere un chip, bravissimo, qualche cosa. Devi riconoscere un chip, alla fine 5 centesimi su 50-100.000 bottiglie non sono soldi, se fate i conti sono veramente pochissimo per, certo, una municipalizzata, ma il ritorno a livello di immagine è fantastico. Ma non è che rischiamo che qualche operatore dell'AMSA svuota i cassonetti e poi va alla macchinetta, mette dentro un centinaio di bottiglie e si fa una cara colazione alla facciaccia vostra? Potrebbe succedere? Guarda, io siamo in Italia, quindi è possibile tutto. Vabbè, ma, però, ma è un rischio che possiamo correre, dici? È un rischio, esatto, è un rischio che possiamo correre, perché l'obiettivo è molto più alto, perché si tratta di educare i cittadini. Il problema è che, io lo noto tutti i giorni, i cittadini sono molto più educati, sono molto più preparati e sono già pronti ad accettare queste cose. Le meno male che ce lo dici tu, ci crediamo. No, a parte, lo dico io, a parte bisogna trovare amministratori illuminati, come è successo a noi. L'assessore all'ambiente Giorgia Bedin, appunto, di Monselice, ha visto questa cosa, l'ha voluta e l'ha fatta. Bravo. Ma come funziona questo centesimo? Com'è che funziona questo centesimo? Viene caricato tramite un QR code, sì, univoco, perché appunto si può utilizzare, sì, solo una volta, e viene scaricato direttamente sullo smartphone. Prima si diceva no banche, superare la questione delle banche, però io in realtà posso solo telefonare poi con questi soldi? No, assolutamente non va a ricaricare una SIM, sono soldi che ti vengono accreditati appunto nel telefonino. Il telefonino poi, non so, carichi 50 euro, li puoi andare a scaricare nei punti convenzionati. Ah, perfetto. Dove funziona il famoso sistema to pay. Benissimo, insomma, a Monselice c'è questa macchinetta, cari ascoltatori. Io la voglio anche tutti a Milano. Tutti a Monselice, la vogliamo anche a Milano. Grazie Kebao, buona giornata. Si può fare. Cronache da un paese migliore. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Yeah, when I'm at the mall, security just can't fight them all. And when I'm at the beach, I'm in a speedo trying to tan my cheeks. But this is how I roll, come on ladies, it's time to go. We headed to the bar, baby, don't be nervous. No shoes, no shirt, and I still get service. Watch! Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out when I. No, cari ascoltatori, non siamo in disco, non vi siete sbagliati, siamo su Radio 24. Buongiorno da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buongiorno, buon sabato a tutti. Sexy and I know it. Vi ricordo che tutte le nostre scelte musicali le ritrovate sulla pagina di Si può fare. E ne approfitti adesso, sì, perché stiamo parlando di Sexy and I know it. Certo, è con noi Fabrizio Quattrini, sessuologo, buongiorno. Sì, ciao, buongiorno. Ciao, ben ritrovato. Buongiorno. Sessuologo non solo, psicoterapeuta, e lo avete visto in azione nel format televisivo Sex Therapy, nel quale tu e la tua socia davate consigli alle coppie, come si può dire, in crisi? Con un calo del desiderio. Con un calo, il classico calo del desiderio. Le parole perfette, perché noi è la mattina, a parlare di sesso già è molto difficile, però giustamente chiamiamo i professionisti che usano parole come calo del desiderio. Quando insomma sei un po' in crisi, non sai più da che parte... No, nel senso, come affrontare la crisi di coppia, eccetera, eccetera. Ma Fabrizio è anche presidente dell'Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica di Roma, è professore all'Università dell'Aquila? Sì, esatto. Fabrizio, allora, con te vogliamo commentare una notizia che è questa. Foto hard di una ragazzina, polizia a scuola. E fra l'altro lei è stata portata via, non so se in manette, ma insomma una... No, in manette. Però una quattordicenne, che è successo ancora, una forma di esibizionismo, si è fotografata lei stessa nuda allo specchio con lo smartphone. Pare che lei stessa abbia inviato queste foto su WhatsApp ad alcuni amici, le foto sono girate, fatto sta che dopo un po' sono arrivati i carabinieri. Ma intanto, perché è un reato questo? Allora no, non è un reato fotografarsi nudi, quello naturalmente non ha a che fare con l'esibizionismo vero e proprio. Il reato lo diventa nel momento in cui tu rendi pubblico e potresti offendere quella che è la, diciamo, la pubblica decenza o comunque le altre persone che possono essere indignate di quella che è la foto. Mm. Però quello che qui sì. è più grave non è tanto il discorso dell'arresto in sé, perché a mio avviso poi non c'è stato un arresto, anche perché è veramente un minore, quanto la difficoltà di queste persone a capire, come dire, i limiti che ci sono nell'utilizzo di quelli che sono oggi dei social network o comunque dei messaggi, no, che hanno a che fare con qualcosa di molto molto delicato. Cioè è molto facile farsi una foto e inserirla in un contesto dove poi però la vede il mondo intero, e questo deve essere fatto, cioè è molto facile ma è molto, molto pericoloso. Però è molto pericoloso, esatto, in questo senso. Cioè è chiaro che io realtà... faccio una foto, la faccio vedere a chi mi pare a me, è esatto. una cosa che rimane lì, ma se la esatto. piazzo su un social network, addio. Questa... Esatto. Beh, in realtà però è interessante perché WhatsApp tecnicamente non è un social network, ma è un servizio di messaggistica, quindi io penso di mandarlo solamente alle persone che conosco. Il problema è che poi ognuno la può rimandare ad altre persone. Esatto, quindi... esatto, esatto. Ma c'è il discorso di creare gruppi con WhatsApp, e quello certo. tu non puoi saperlo, cioè magari sei fuori dal gruppo, ma intanto la tua foto gira su quel gruppo. Quindi lo diventa social nel momento in cui è gestito in maniera simile ai social. Poi è chiaro che invece è un canale di messaggistica. Però privata. Fabrizio, tu credi nella ingenuità, nel fatto di non essere totalmente consapevoli che WhatsApp, il social network, possono avere questa forza, oppure invece non credi che dietro ci sia proprio una voglia di far circolare le proprie immagini in qualche modo, ma anche senza arrivare al fatto, diciamo, del dileggio pubblico, però una forma di esibizionismo, questa sì? Allora, guarda, è molto delicato quando abbiamo a che fare con pubertà e adolescenza, perché comunque l'aspetto della sessualità, essendo l'Italia un paese ancora indietro rispetto a questo, non permette una sana e chiara educazione alla sessualità. Quindi ci potrebbero essere anche delle caratteristiche di quella persona che può avere a che fare con una caratteristica appunto esibizionistica, ma spesso è un'ignoranza che c'è, soprattutto in quell'età. Questo mi sembra un punto fondamentale, perché molto spesso, no, si parla in Italia appunto non ci sono i corsi di sessualità, non viene insegnata a scuola, e addirittura ci sono genitori che vogliono che non venga insegnata. Esatto. Invece è esattamente il contrario, è nel momento in cui non viene insegnata che poi forse a una ragazzina o a un ragazzino viene questo desiderio, o comunque c'è questa ignoranza, e quindi, non conoscendo la questione, uno se ne occupa come può con i propri strumenti di ragazzina tredicenne o quattordicenne che sia. Quindi esatto. questo mi sembra veramente il punto. Ma infatti, Carlo, stai dicendo una cosa importante, perché in realtà questi genitori sono genitori che vorrebbero controllare i propri figli non avendo loro stessi delle informazioni, e quindi se il controllo significa eliminare il problema, cioè non vederlo, non parlarne, poi dobbiamo prendersi anche le responsabilità di quello che accade con la nuova tecnologia, con tutte le situazioni che poi oggi sono alla mercé di tutti con molta facilità. Giustissimo, infatti lo stesso istituto scolastico che si è difeso quando gli è stato chiesto come mai i carabinieri, ha detto è perché i genitori hanno chiamato i carabinieri, quindi i carabinieri esatto. sono stati obbligati, in quanto, diciamo, parte offesa, a intervenire. Quindi di nuovo è giustissima la cosa che stai dicendo, è di nuovo una questione di ignoranza e dei genitori che, volendo controllare i figli, chiamano i carabinieri, quando in realtà, perdonami, ma avrebbero dovuto chiamare te. Ah, guarda, è vero. No, è vero. Lo so, però, grazie. Te o allora, qualcun altro, adesso non era qualcuno che fa il tuo lavoro. Che fa il mio lavoro. Certo. Sì. Allora, quello infatti che vorrei fosse chiaro è che l'Italia, e mi dispiace dirlo perché sono in Italia e sono italiano, ancora è veramente indietro rispetto all'educazione sessuale, perché non c'è una regolamentazione giuridica in merito che garantisca una chiarezza rispetto proprio anche ad abbattere l'ignoranza, abbattere i tabù della sessualità. Questo che significa però che, almeno dal mio punto di vista, non è fare i corsi nelle scuole ai ragazzi e magari fatti anche ad hoc perché succede una situazione come questa che avete descritto, ma è farli in maniera tridimensionale agli adulti di riferimento, che sono i genitori, gli insegnanti e gli stessi ragazzi. Quindi tutti insieme, in insegnanti, solo... genitori e ragazzi. Attento, non, ma... insieme, non insieme, cioè in maniera ecco. gestita. Ognuno per par suo. Per ma Fabrizio, ma tutti. A voi vi chiamano a fare questi corsi nelle scuole o no? assolutamente sì. No, noi, noi ci chiamano, ma ci chiamano troppo tardi. Cioè, ci chiamano quando? Dopo, quando è successo il fatto. Esatto, quando è successo il fatto. Oppure il preside di riferimento di quella scuola decide di fare un qualcosa di innovativo e ci chiama per quell'anno scolastico. Questo ha un significato minimo, perché tu vai... Cioè, come in iniziativa classe... estemporanea. Noi siamo il paese delle emergenze. Esatto. Si va sull'onda del fatto, si chiama lo psicoterapeuta, poi però l'anno dopo, dal mese dopo, ci si dimentica tutto. Grazie Fabrizio! Grazie mille! Grazie a voi, buon weekend! Grazie, ciao, è sempre un piacere! Cerchiamo l'Europa delle opportunità. Più viaggio, più incontro persone della mia età che capiscono il mondo come il nostro mondo. Non è il mio paese, è la nostra Europa. Cerchiamo l'Europa dei valori. Io sono pro-europeo, sono uno che adora l'Europa. È una parte del mondo che mi affascina. Cerchiamo l'Europa dell'innovazione. C'è bisogno di informare e come possiamo aiutare i cittadini, i giovani, i ragazzi a capire che cosa è l'Unione Europea e cosa gli può offrire. Sono Federico Taddia e vi aspetto ogni sabato alle 12 all'Altra Europa per andare insieme a cercare e a scoprire l'Europa delle persone, delle storie e delle possibilità. L'Europa c'è, facciamola nostra. In collaborazione con Euronet Plus. Alle 6 di mattina a parlare con gli ortaggi, sembra ma non parlo al vento, come fanno certi saggi. Mi sento più realizzato da quando ho cominciato a coltivare non più sogni, ma zucchine, broccoli, scaloni. E son rimasto senza fiato quando mi son ricordato che se un fagiolino vuoi, un fagiolino va piantato. Così ho capito nella vita il significato e il valore inestimabile di un prato concimato. Si dice che l'orto vuole l'uomo morto, ma il supermercato vuole il popolo ritardato. Si dice che l'orto... E allora, come sempre, quando scegliamo questo tipo di musiche, avete già capito di cosa andremo a parlare. Però voglio fare questa premessa. Ti ricordi, si diceva un tempo la casalinga di Voghera? Certo. Chissà perché, no? Chi è che ha inventato questa espressione? Beh, è un film di Nanni Moretti, dove sì, c'era la casalinga di Voghera che rispondeva a un dibattito. Ah. E, adesso si potrà parlare anche di orti sociali di Voghera. Non so se avranno la stessa popolarità. Speriamo di più. In Italia e nel mondo, ma questa è la notizia che ci è molto piaciuta. È una storia che riguarda gli orti sociali e riguarda Voghera, e con noi il fondatore degli orti sociali di Voghera, l'ho detto 8 volte ma non potevamo fare altrimenti, Moreno Baggini. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Allora, perché ci piace questa notizia? Ci sono orti sociali, orti urbani in tante città, tante esperienze, tutto un movimento, però qua veramente mettete insieme tutto: il movimento, il ritorno alla terra, i prodotti a chilometro zero, l'agricoltura buona, ma anche il recupero di persone che hanno avuto dei disagi, dei problemi, delle difficoltà, il tutto su terreni che sarebbero incolti. E questa è la cosa che ci fa più male, vero Moreno? Esatto, esatto, nel senso che il progetto è nato nel marzo del 2014 cercando di coniugare due elementi fondamentali per la mia persona, nel senso che sono l'agricoltura e il sociale. L'agricoltura perché provengo da un mondo agricolo, i miei nonni in Europa erano agricoltori, anzi ortolani, devo dire, della città di Voghera. E qual è la differenza tra agricoltori e ortolani, Moreno? Bellissimo. Beh, ortolani sono quelli che vendono. Certo. Ortolani, sì, si dicono direttamente all'orto, insomma. E l'altra parte è il sociale, che è la mia professione, facendo vice direttore della Caritas diocesana di Tortona. Avendo dei terreni sul territorio di Voghera incolti, abbiamo pensato appunto di iniziare questo progetto di agricoltura sociale. L'agricoltura sociale significa appunto, come avete detto bene voi, l'inserimento di soggetti svantaggiati all'interno di un'azienda agricola. Fortunatamente questa agricoltura sociale è stata anche disciplinata recentemente da una legge, il che ci consente effettivamente di operare anche in un modo migliore. Ecco, vedi, territorio. Questa è una cosa curiosa che mi ha incuriosito, perché l'Italia è il paese dove tutto va a ramengo, però poi c'è fortunatamente nel tanto, nel troppo forse di leggi, poi abbiamo anche le leggi giuste per regolare le buone pratiche. In questo caso è una legge che disciplina proprio l'agricoltura sociale, no? Sì, esatto, una legge, se volete, l'18 agosto del 2015, è una legge appunto molto recente che effettivamente dà la possibilità alle aziende agricole non solo di produrre i propri prodotti, ma anche di fare questa agricoltura multifunzionale, insomma, perciò lo sviluppo di interventi e di servizi sociali per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, ed è quello che sostanzialmente abbiamo fatto fate noi. Voi. A me colpisce sempre questa cosa dei terreni abbandonati, no? mi fa tristezza l'idea di passare a fianco, vedere appunto selve che crescono, erbe che infestano tutto, è sempre un peccato. Però noi sappiamo che lavorare la terra è un lavoro faticoso, per ogni azienda agricola che chiude non ce n'è un'altra che apre, proprio per queste difficoltà, a volte la questione dei prezzi sul mercato, non c'è un riconoscimento sufficientemente elevato del prezzo che si ricava dai prodotti. Voi in questo caso siete riusciti però a mettere a frutto alcune di queste terre abbandonate, pubbliche o private? Entrambe, nel senso che noi siamo partiti con terreni che avevamo noi di famiglia, privati, che appunto, come avete detto bene voi, insomma, con il passaggio degli anni 60-70, effettivamente con quando poi le aziende agricole difficilmente riuscivano ad essere concorrenziali sul mercato e si preferiva lavorare da altre parti. Perciò il passare, il vedere appunto terreni incolti, anche a me ha fatto dispiacere. Proponendo questo progetto, devo dire che la sensibilità delle persone ha fatto sì che iniziassimo con un pezzettino piccolo di terreno davanti casa, ma abbiamo una potenziale disponibilità di veramente di diversi ettari, proprio perché le persone hanno questi terreni che non vengono coltivati, difficilmente magari anche vengono affittati con un prezzo mediocre, e di conseguenza si preferisce dare ad un progetto di agricoltura sociale di questo tipo per far sì che ci sia un valore sociale all'interno della nostra città. E poi è anche un modo per tenere il terreno in migliori condizioni, forse, no? Anziché appunto. Assolutamente. Moreno, dobbiamo salutarci perché siamo in chiusura. Io la ringrazio, Moreno Baggini, fondatore degli Orti Sociali di Voghera, una delle tante storie, però qua sono andati a fondo. Bravi, complimenti. Grazie mille. Non poteva mancare oggi, sabato mattina alle 9.45 circa, l'appuntamento con i nostri compagni di viaggio di Radio Immaginaria, la radio fatta solamente da bambini, ragazzi tra gli 11 e i 17 anni, che insieme a noi hanno deciso di fare questo viaggio nel mondo del bullismo, nelle scuole, ma non solo, nei luoghi da loro frequentati. E quindi ecco una nuova puntata di Caccia Bulli insieme a Radio Immaginaria. Ma lasciami stare, mi devi lasciare stare, capito? Smettila, dai, non ti ho neanche toccato. Hai un bullo avvitato tra i piedi? Svitalo con il cacciabulli di Radio Immaginaria. Ogni sabato su Radio 24. Ciao a tutti, noi siamo sempre gli spicca di Radio Immaginaria, l'unica radio di adolescenti dagli 11 ai 17 anni in tutta Europa. E anche oggi vogliamo raccontarvi un altro paio di storie sul bullismo. Non tutte le storie che vi raccontiamo vanno a finire male, questo è perché parlandone da una cosa piccola non si può ingigantire e quindi non ci fa soffrire troppo. Scriveteci alla nostra mail radioimmaginaria@gmail.com e noi ne parleremo. Oh yeah! Ciao a tutti, questa è la mia storia. Una storia che parte dall'unione di due classi, quando noi ci ritrovammo in classe i bulletti. Tutto partì quando io dissi alla mia classe che ero DSA, ovvero che avevo problemi di disgrafia e dislessia. Da lì cominciarono a prendermi in giro, prima dandomi del down, ma dalle parole ai fatti. Quando io uscivo il pomeriggio con i miei amici, loro erano sempre dove andavamo noi, quasi come se ci pedinassero. Ci accerchiavano e ci picchiavano. Così, non avevamo fatto niente. Allora, da lì in poi io non sono più uscito. Non sono più uscito di casa per 2 anni, non avevo più neanche voglia di andare a scuola. Facevo di tutto pur di non andarci, bevevo anche il caffè col sale per vomitare e stare a casa. Dopo 2 annetti ho cambiato scuola, cambiato classe e lì ho conosciuto una persona che mi ha aiutato a uscirne, un mio amico che è il doppio di me e che mi ha fatto da guardia del corpo, diciamo. Ora il consiglio che vi do io è che dovete parlarne con i vostri genitori, dovete farvi sentire anche dagli adulti. Noi siamo qui per questo. Se volete raccontarci le vostre storie, l'email è radioimmaginaria@gmail.com. Questa era solo la prima storia, ora ve ne raccontiamo un'altra, ascoltateci. Radio Immaginaria. Vai, raccontaci la tua storia. Allora, a me è successo che ero in prima media e nei primi mesi di scuola si era creata una situazione in cui un piccolo gruppetto veniva preso in giro delle ragazze. Cioè, aspetta, tu sei stato bullizzato da delle ragazze, davvero? Sì, perché praticamente quelle ragazze, proprio quelle più snob, più sì, pestifere, che tu potessi immaginare. Che cosa facevi? Gli insulti erano quelli che, come dire, si fanno sempre. Addirittura, però, una cosa un po' singolare è che si erano inventati delle malattie che si trasmettevano al tocco con i nostri cognomi. Tipo, uno si chiamava Zanotti, avevi la zanofobia. A me non me ne importava niente di questo caso. Gli altri miei che venivano bullizzati, capivo che si sentivano male. Quindi sono andato da questa prof. Hai preso tu in mano la situazione? Sì, che ci ha detto ci penso io. Allora, un giorno ci ha fatto sedere in cerchio e, pretendendo il massimo silenzio, uno ad uno abbiamo espresso il nostro malessere. Ah, quindi ognuno di voi ha detto che cosa non gli andava bene? Sì, quando abbiamo finito noi, loro dicevano ma no, non è vero, non abbiamo, facciamo queste cose. Queste ragazze. Sì, poi però hanno cominciato anche tutti gli altri della classe a dire no, guardate, hanno ragione loro, voi siete veramente pesanti. Addirittura però questa situazione le aveva portate a una specie anche loro di disagio. Addirittura alcune hanno cominciato a piangere. Perché non se ne erano neanche accorte loro. Non neanche loro rendono conto. E addirittura quella cosa è stata talmente intensa che per due ore ti saliva magone, l'aria era pesantissima. Ma come dire, si è riuscita a risolvere questa cosa. Però alla fine, dopo quasi due ore di questo dialogo, siamo riusciti a trovare un punto di incontro. Quindi alla fine queste cose sono più successe, insomma siamo diventati anche un gruppo più unito di classe. E queste erano le nostre storie di bullismo di questa settimana. Da tutta Italia, da tutta Europa, scriveteci. Noi non vediamo l'ora di raccontare le vostre storie e le vostre esperienze, perché la cosa più importante è raccontare. Quindi inviateci una mail a radioimmaginaria@gmail.com. Alla prossima! Cacciabulli di Radio Immaginaria! Ogni sabato su Radio 24! E grazie dunque ai ragazzi di Radio Immaginaria, una nuova puntata di Cacciabulli. Noi con voi ci risentiamo sabato prossimo invece con Si Può Fare, ci risentiamo domani mattina in diretta alle 8.30. Grazie a tutti per essere stati con noi, buona giornata, ciao da Alessio Maurizio.